La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ed eccoci qua come ogni sabato, puntuali alle 18 per raccontarvi tutto il cinema che c'è su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, puntata speciale, ricca, perché tanti, davvero tanti sono i film che arrivano in sala in questa settimana. Quindi ne parleremo dovutamente, come sempre giocheremo insieme, vi proporremo il nostro film misterioso, ma soprattutto avremo una sorta di madrina, io vorrei dire una co-conduttrice, perché è con noi, signori, Isabella Ragonese. Che responsabilità! Bentrovati, allora faccio la signorina buonasera, bentrovati. Isabella Ragonese, no, regina della settimana, perché non uno ma ben due film, è la distribuzione italiana quando ci si mette fa delle cose straordinarie. Sono il vostro incubo questa settimana, sì, due film in uscita. Due film in uscita, ne parleremo soprattutto in maniera diffusa. Di uno Il padre d'Italia, l'altro è Questione di Karma, una commedia che è già partita molto bene al botteghino. Insomma, Isabella è venuta a trovarci qui in studio, io la ringrazio davvero tanto, perché è una delle attrici che, come dire, in Italia ci danno qualche brivido, e quindi questa cosa penso non brividi freddi di paura, no? Un'attrice da paura. Allora cominciamo subito con il buttarci un po' nel clima agonistico della settimana, perché fra i film che arrivano in sala ce n'è uno che ha molto diviso la critica. Io sto dalla parte di chi l'ha amato, se no non ve ne avrei parlato, ed è un melò, diciamo così, un melò proprio di genere, proprio particolare, che vuole essere un melò. Si intitola La luce sugli oceani, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Carissima Isabella, non so smettere di pensare ai momenti passati insieme. Carissimo Tom, la prima volta che ti ho visto ho sentito di conoscerti da sempre. Ho immediatamente immaginato la mia vita con te. Essere amato da te mi fa sentire di nuovo vivo. L'amore è inatteso per Tom Sherburne, soldato britannico nella Grande Guerra che, per mettersi alle spalle gli orrori bellici, accetta il posto di guardiano del faro a Janus Rock, ultimo baluardo del Commonwealth ai confini del mondo a sud del continente australiano. Prima di arrivarci incontra Isabel. È lei a farsi avanti, a farlo innamorare, e con lui va al faro sperduto. Sono soli, soli si amano, soli affrontano due aborti, soli accolgono dal mare un'insperata felicità. Il suo arrivo non può essere una coincidenza. È una bimba deliziosa, ma non puoi tenerla. Lei è nostra. Non facciamo niente di sbagliato. Felicità effimera, anche perché fraudolenta. La bimba ha perso il padre, il cadavere dell'uomo nella barca con lei, ma ha ancora la madre, che non ha smesso di cercarla. Come ti chiami? Lucy. Lucy, sono felice di conoscerti. Ciao. Ciao. Lui è Michael Fassbender, lei Alicia Vikander, e il set è quello in cui è nata la storia fra i due. Rachel Weisz è l'altra madre. Non diremo quella vera, perché il punto del film sta qui. La madre è quella che dà la vita o chi cresce? Chi sono i buoni e chi i cattivi? Cosa è giusto o sbagliato? Questione sempre di scelte, secondo Fassbender. I suppose first and foremost it's a love story. Credo che prima di tutto sia una storia d'amore. Ma penso anche che sia una storia molto umana, che parla delle scelte che facciamo nella vita e delle loro conseguenze. Ma che quelle scelte siano giuste o sbagliate, in questo film hanno effetti sia positivi sia negativi. Parla di come noi, in quanto esseri umani, affrontiamo queste scelte e di come le persone che ne sono coinvolte riescano a perdonare. Parla anche di come brave persone facciano cose sbagliate, cattive scelte. Il bello di questa storia è che i personaggi sono reali e tutti brave persone. La luce sugli oceani è tratto dal romanzo con lo stesso titolo ed è diretto da Derek Cian Frantz, quello di Blue Valentine, come un tuono, in questo caso senza Ryan Gosling, ma a raccontare una storia d'amore con altre sfumature. Per apprezzare questo film vi deve piacere il melò e non dovete aspettarvi colpi di scena al cardiopalma. Fatte queste premesse il film può piacere, anche se molte delle critiche hanno virato al negativo. C'è chi ha parlato di un faro senza luce e chi ha lamentato la scarsa empatia con lo spettatore. Il rigore, anche climatico, e il freddo sono una nota stilistica della pellicola. Un freddo romantico nei colori e nei personaggi. I paesaggi sono di gelido incanto, come imprigionato nel gelo appare Fassbender, anestetizzato dalla guerra e dal senso del dovere. Le donne sono il fuoco, ma anche per loro è troppo forte il vento a queste latitudini. E allora Chiara Pizzimenti ci ha raccontato La luce sugli oceani, il film con cui abbiamo aperto questa nostra puntata della Rosa Purpurea. Adesso diamo subito la linea alla viabilità, sentiamo come vanno le cose sulle strade e poi torniamo, ci aspetta Isabella Aragonese e la spremiamo per bene per parlare del padre d'Italia e di questioni di calma, tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua ancora insieme, La Rosa Purpurea. Come promesso, è arrivato il momento di Isabella Aragonese, nostra ospite qui alla Rosa Purpurea questa settimana. Si sta sfregando le mani. Isabella, parliamo del Padre d'Italia, il film, diciamo, è uno dei due film che hai questa settimana in sala, perché tu tutte le settimane hai due o tre film che escono così. Va così. La crisi del cinema italiano. Quando una è brava, cosa vuoi fare? Però no, scherzi a parte, questo è il film, come dire, che si regge almeno al 50% sulle tue spalle. Tu hai un debole per me, quindi vedi tutti i film dal mio punto di vista. In realtà è la storia di Paolo, è il percorso, perché proprio di percorso si può parlare, perché è un on the road, appunto, è un viaggio di questi due estranei che dal mio punto di vista prendono un po' una strana storia d'amore che non può essere definita in alcun modo. Appunto, Paolo è un ragazzo omosessuale che è malato, di solitudine, è bloccato, e quindi il mio personaggio, che è questa cantante sbandata, che vive alla giornata, che è sempre divora la vita, no? È un po' il motore che fa cambiare poi Paolo. Il catalizzatore, sì, diciamo. Sì, no? Diciamo che... io l'ho immaginata come una strana fatina dai capelli rosa, no? Una fatina sbagliata, un angelo custode. Una fatina rock. Ubriaco. Sì, esatto. Sono due persone completamente sconosciute che in quel momento si incontrano nel momento giusto, no? Nel momento in cui si riconoscono e sentono che l'uno può dare qualcosa all'altra, ed effettivamente è un incontro che a Paolo cambierà la vita, e trovo che sia tra le tante tematiche del film, trovo sia molto bello anche che anche le persone più sbagliate e più insospettabili possono forse insegnarti qualcosa, no? Tu che puoi fare da grande? Non sono sicuro di te, però in realtà siamo già grandi. Dai, Paolo, hai capito, no? Ce l'avrai dei sogni nella vita. Ma in realtà da bambino volevo fare il falegname, poi dopo l'architetto, un po' come evoluzione. Però poi va bene così. Va bene così? Va bene così. Non va bene così. Non va bene così, Paolo. Non va bene così, non va bene così! Come hai curato la tonsillite dopo questo dopo questo urlo? No, scherzi a parte, non va bene così, perché Mia è una che non va perfetta, mai bene. Perfetta la clip, perché effettivamente secondo me ci sono nel film ci sono delle battute che definiscono perfettamente i personaggi. Ecco, una di Mia è perché quando ti succede qualcosa tu sai subito se è una cosa bella o una cosa brutta, cioè proprio i due personaggi completamente diversi, perché Paolo vuole definire tutto, vuole sapere subito se una cosa è giusta o sbagliata, lei non se lo domanda e vive le cose. E questa clip che avete mandato è proprio anche lo spirito del film, che uno spirito positivo contro la rassegnazione. Paolo dice va bene così, per Mia non va bene mai così, deve essere sempre provare qualcosa di nuovo, e quindi è anche un film, è stato anche detto, di una generazione insomma un po' rassegnata, e la voglia anche di cambiare, di avere il coraggio di cambiare, e in questo senso è una riflessione anche su il passaggio, no, dei trentenni, che è sempre più difficile, di passare da figli di qualcuno, in senso lato anche, no, di essere figli anche di una generazione passata, all'essere genitori, no? Certo. Quindi del cambiamento. È comunque soggetto attivo della società, esatto. Insomma, sei quello da cui ci si aspetta poi a quel punto il cambiamento. Ecco, ci sono temi, tematiche molto, molto importanti trattate nel film. Hai detto prima, Paolo è un ragazzo omosessuale, e nel vostro viaggio lungo lo stivale affrontate a un certo punto il tema di un po' di questo amore latente, come dicevi tu, che però non può per evidenti ragioni mai sfociare, anche se sembrerebbe che tutti e due i protagonisti lo vorrebbero fortemente. Beh, perché sono due persone che, cioè, alla fine è un discorso anche sull'amore. L'amore è prendersi cura di qualcuno, e sono due persone che non hanno nessuno che si prenda cura di loro, no? E quindi per la prima volta si accudiscono, no? Io dico, sono uno l'angelo custode dell'altra. Però mi ha molto colpito una cosa, l'hai detto prima, Mia è una ragazza a cui non va mai bene così, bisogna sempre esserci, che ci sia qualcosa, e lo è anche nel momento in cui si parla della possibile paternità del protagonista, di Paolo. Sentiamo. Ma tu un figlio lo vuoi o no? Non è un fatto di volerlo o non volerlo, è la natura. In natura un uomo e una donna possono fare dei figli? Sì. Un uomo e un uomo? No. Se la natura avesse voluto, ce l'avrebbe permesso. Perché forzarla? Rischieremo di essere contro natura. E la Madonna? Scusa, la Madonna era contro natura? Che cosa è brutto che dici? Perché brutto? Perché la natura ogni giorno fa un sacco di miracoli. Persino su questo, Mia, come dire, lo supera, no? lo sprona, lo prende per il colletto e cerca di portarlo sui di fargli capire i territori che deve battere. Certo, insomma, quali no, ma anche nella stessa comunità omosessuale spesso si dice, appunto, se fossimo stati programmati per essere genitori, potremmo farlo. E in questo anche lì Mia è un motore, perché dice, esistono i miracoli, esistono le eccezioni, allora come te le spieghi queste cose? Quindi è l'idea anche di un nuovo concetto dell'essere genitore, cioè i genitori oggi non possiamo pensarli più solo in una maniera biologica, no? Solo di una fecondazione, cioè il genitore è la persona che poi cresce. E cosa vuol dire essere padre o madre? Educare, crescere un figlio, non può essere solo una cosa meccanica, certo. No? Quindi in questo senso, vabbè, non abbiamo detto che la cosa fondamentale è che Mia è incinta di una bambina che non sente di volere, quindi anche un sovvertimento, diciamo, di certe idee preconcette dell'istinto materno, no? Lei non ha assolutamente istinto materno, l'istinto paterno c'era Paolo. E questo viaggio, in fondo, io penso sia anche il viaggio di Mia per scoprire, capire che è una persona buona di cui si può fidare, a cui può fare un regalo poi finale. Io lo vedo un po' come un gesto proprio ultimo d'amore, no? E anche di riconoscere, che quello è anche un concetto che secondo me per le donne è importante, cioè riconoscere anche di non essere capace di fare qualcosa, no? Oggi dobbiamo sempre essere... Certo, sempre all'altezza su tutto. È anche una forma di saggezza riuscire a riconoscere i propri limiti e sapere che non si è pronti per qualcosa. Sapere dove fermarsi, insomma. Allora, il padre d'Italia nei cinema italiani, Luca Marinelli, Isabella Aragonese, il film è partito bene, insomma, come avete capito è un film che vi consigliamo di andare a vedere. Ma, come dicevamo prima, non è neanche l'unico con Isabella Aragonese questa settimana, perché c'è anche una commedia, lì sei tutta un'altra cosa, anche lì c'entra però l'omosessualità, però in maniera più così. Più distante. Sentiamo la clip e ne parliamo. Excuse me, I don't understand. In English, please. I'm so sorry. Is there... No? Ciao, io vado. Ciao. I don't speak Japanese. I'm so sorry. I don't speak Japanese. No, niente, questi parlano solo giapponese. Scusa? Moshi moshi, lo devo accavare ma sta. Nanno kede shouka? Hai. Hai. Hai. Sayonara. Dopodomani ti rimandano il contratto firmato. Va bene, grazie. Senti, ma Fabio De Luigi, sai il giapponese? No, rido perché io avrò sentito dal mio camper nel camerino, povero Fabio, che poi è di una precisione, uno non lo direbbe perché pensa sempre che sia un simpatico farfallone, un lullone, non sapevo come dirmi, prima una parola brutta. No, in realtà è un attore molto molto serio, molto preciso, e quindi questa cosa voleva farla veramente bene del giapponese, quindi sentivo sempre moshi moshi, hai hai hai, e quindi... Senti, sì. Invece però, questione di karma, Elio Germano e appunto Fabio De Luigi protagonisti, ma tu nel ruolo di una sorellastra, diciamo così, che inizialmente è molto austera, lavora nell'azienda di famiglia e sostanzialmente dovrebbe essere la destinataria di questa immensa ricchezza. È un po' la copia del papà anche, esatto, no? Poi il clone direi di Erospagni, straordinario, con Stefania Sandrelli, bravissima. E poi però cambia, cioè ha la tua personaggio così prende un po' ad accudire anche in questo caso quello di Fabio De Luigi e a farsi cambiare, permette di farsi cambiare, insomma. Questo film è secondo me molto molto godibile, la coppia secondo me Elio Germano nella parte comica e Fabio De Luigi nella parte drammatica è molto... Funziona. E nel mio caso era un piccolo ruolo, ma mi sembrava che anche fosse ben raccontato, ecco, non era un ruolo che non mi dava la possibilità di svilupparlo, perché in quelle scene c'è una cosa secondo me anche molto bella tra fratelli, no? Lei parte pensando che il fratello è uno scemo completamente, perché in questa famiglia di industriali lui è uno che studia il sanscrito, suona la zampogna, cioè si occupa di cose un po' spirituali e viene considerato un poverino, uno che non ce la può fare, mentre lei ha quest'ansia di piacere al papà Erospagni, quindi sia è una molto uguale, appunto, la copia del papà. E questo, c'è una scena molto che viene dopo questa del giapponese, che è molto tenera invece, perché in verità non è che lei diventa un'altra persona alla fine, rimane così, però scopre che forse il modo di vita del fratello poi non è proprio tutto sbagliato, c'è qualcosa, no? C'è qualcosa anche da imparare da lui. E questa cosa, insomma, io cerco sempre di, cioè non è che proprio conto le battute che ho, quindi mi sembrava che anche nel piccolo ruolo potesse essere, certo. Poi insomma quando mi ricapita mi fanno fare una no, quest'anno è un anno per me molto di personaggi molto diversi, penso anche a quello che è stato presentato alla Festa di Roma di Daniele Vicari, che uscirà a maggio, Sole, Cuore, Amore. Insomma, mi piace pensare che di poter provare cose diverse, appunto dalla Carte nel Love quasi del film di Fabio Mollo a questa donna in carriera nel film di Falcone e poi la proletaria del film di Vicari. E quindi ecco, e cercare di essere qui credibile anche in ruoli diversi. Certo, che è quello che poi bisogna che faccia un attore, no? Ma non è così per conquistarsi che una... te lo, che no, te assolutamente, lo propongano, assolutamente. No? Ma insomma, tu invece mi sembra che abbia occupato militarmente i set italiani e anche il teatro piccolo di Milano, perché abbiamo anche una Isabella Aragonese live in the flesh, come, certo, dicono quelli che se ne intendono, in the flesh, wow. al piccolo di Milano, in Via Rovello, al Grassi, dal 21 marzo. 21 marzo al 30 aprile. Raccontaci, quindi non brevemente avete scusa cosa sarà. Ma io negli anni ho sempre cercato, come tu ben sai, di fare sia teatro che cinema, quindi è una cosa che con difficoltà tento di mettere insieme. Lavorare al piccolo era il sogno, penso, di qualsiasi attore che viene dal teatro. È una riscrittura di Stefano Massini di un romanzo epistolare di Balzac. Lo spettacolo si chiama Louise René. Siamo io e Federica Fracassi, la regia di Sonia Bergamasco, ed è appunto la storia di questa amicizia femminile, che poi è un argomento poco trattato, che invece è molto interessante perché ha tante dinamiche di sorellanza, di invidia, di specchio riflesso, insomma tante cose molto interessanti attraverso le lettere di una vita che questo foglio bianco su cui scrivono è l'unico contatto che loro hanno, quindi il raccontarsi è l'unico mezzo per alimentare questa amicizia di due donne diversissime. Appunto, io sono Louise, la donna mondana che fa una vita, va a Parigi, e lei invece famiglia, casa, figli. E questa cosa, nonostante sia scritta come sempre, insomma, penso che Balzac abbia scritto dei personaggi femminili straordinari, e molto attuale in verità, no? Cioè, perché si parla sempre delle, cioè, a me, ovviamente essendo un'attrice, poi mi capita di interpretare ruoli femminili in cui la tematica della vita, cosa ti porta ad essere, no? Madre, moglie, di sempre di qualcuno, di qualcosa, e il chiedersi a un certo punto chi sei tu veramente nella tua stanzetta tutta per sé, è una tematica che spesso mi capita di raccontare, ecco, perché forse è un nodo, certo, molto, un nodo cruciale. Ti direi cruciale proprio della nostra società, e forse sì, anche sì, dell'essere donne nella nostra società. Cioè, capita più spesso alle donne di dover interpretare, insomma, di essere incastrate in ruoli, certo, no? Certo. E quindi perdersi anche in questo. Isabella, insomma, è già finita? Sì, più o meno sì, però tu torna quando vuoi, e noi siamo, vabbè, qui, ti aspettiamo. Ma tanto film ne hai una quindicina, quindi. Ma me la fai come una colpa, ma guarda, no, che non ma uscivano te la, da un ma po', te la faccio però, come uno scherzo, assolutamente, perché noi ti vogliamo e sempre ti vogliamo sullo schermo e qui a Radio 24. Grazie Isabella. Grazie Aragonese. Grazie a voi, ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Linea alla regia, fra poco torniamo con un altro paio di film in uscita in sala. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. La Rosa Purpurea. Abbiamo lasciato Isabella Aragonese e invece ci ritroviamo Boris Sollazzo. Mi rendo conto che nel cambio ci perdo, però lo saluto lo stesso. Ciao Boris! Beh, anch'io nel cambio ci perdo, avrei preferito Isabella Aragonese. Vabbè, del resto, insomma, ogni tanto capita anche dalle nostre parti. Senti Boris, ben trovato, benvenuto. Un paio di film tra i tanti, devo dire, probabilmente quasi troppi, che escono questa settimana, come al solito, 11 nuovi film in sala. Sicuramente quello che al botteghino forse farà le cose migliori è Kong Skull Island, ma insomma, come dire, forse può non soffermarsi su quel film il nostro sguardo, mentre invece vorrei raccontarne un paio che abbiamo pescato e con Boris, cominciando da Bleed, sottotitolo Il più forte del destino, la vera storia del pugile. Vinny, pazienza. Pronto? Dimmi il peso, quant'è? A quanto sei, Vinny? Sto arrivando! Arriva. Everybody! Ho una sorpresa per te. 65 kg, pari. Sì! Domani sera sarai morto. Ti spazzerò via come uno tsunami. Colpisci ancora! Drake! Con una fusione spinale ti garantisco che tornerai a camminare. Io tornerò a combattere. E allora, l'avete sentito anche già dalla clip, un film di pugilato, un film su un pugile tra l'altro assolutamente ancora non attivo, ma vivo e vegeto, come Vinny Pazienza, un pugile che si muoveva in quegli anni 80 americani, ma che venne a combattere anche in Italia e che poi fu vittima di un incidente stradale di rara gravità, che, come avete sentito da questa clip, mise in forse addirittura il fatto che potesse camminare, figuriamoci combattere e prendere colpi in faccia. Cioè, invece Vinny Pazienza era un irriducibile, era uno che si mise in testa, oltre che un'idea meravigliosa, anche una sorta di tutore in acciaio con le viti piantate nel suo cranio, non per essere, come dire, trash, ma insomma è andata proprio così, e che con questa rieducazione, senza mai perdere l'anima e la fiducia, e grazie anche a un allenatore che gli stava dietro, riuscì a tornare a combattere, a tornare sul ring. Il pugilato è una straordinaria metafora della vita, non per altro il cinema, ma spesso prende questo sport e lo usa per le sue storie, perché sono storie di rivincita, di sofferenza, di resistenza umana. In questo caso con un attore, Miles Teller, che era l'attore protagonista di Whiplash, il precedente film del Damien Chazelle di La La Land, per intenderci. Vi ricorderete il film sul batterista, sul ragazzo batterista che voleva sfondare? Bene, era proprio lui, Miles Teller, che adesso interpreta Vini Pazienza e che ha di fianco in un ruolo da non protagonista, ma da veramente da grande presenza sullo schermo, uno straordinario Aaron Eckhart nei panni del suo allenatore. Boris, ricordo che eravamo insieme a Torino Film Festival quando abbiamo visto l'anteprima di questo film, ci guardavamo in faccia proprio veramente convinti di questa grande storia. Assolutamente sì, Miles Teller tra l'altro ci conferma che si trova a suo agio nelle storie in cui l'allenatore o comunque l'uomo che ne fa da pigmalione è più matto di lui, perché anche in questo caso insomma Aaron Eckhart, che sicuramente non raggiunge gli eccessi di Whiplash, ma è comunque un uomo che si prende in carico una sfida anche moralmente complicatissima da portare avanti, dimostra di essere in qualche modo poco sano di mente, e in fondo forse il pugilato è uno sport da nobili matti, e lo era sicuramente Vinny Pazienza, che a un giovane Stallone poi ispirò in parte come stile di box Rocky Balboa. Vinny Pazienza appunto realmente esistito, uno di quei pugili proletari tra gli anni 70 e 80 andarono spesso sul ring con poco stile, grande capacità di incassare e una voglia di vincere che andava oltre l'autolesionismo. Non succede però come ad Apollo Creed, che il destino arriva a bussare sul ring, ma su una macchina per un errore altrui, e la sua carriera, che era appena all'apice con un titolo anche isperato, sembra crollare, perché appunto lui è un passo dalla paralisi, in teoria non dovrebbe neanche muoversi, ricomincia ad allenarsi. La classica storia del reborn americana, una storia benissimo raccontata, c'è da dire che ormai i film sul pugilato non si sbagliano più, già prima si sbagliavano difficilmente, adesso veramente anche quelli diciamo tra virgolette non di serie B ma non mainstream come Southpaw e questo Bleed riescono alla grande, anche perché spesso i registi riescono a trovare ottimi attori. In questo caso Miles Teller è bravissimo a incarnarlo, sembra quasi camaleontico nel diventare Vinny Pazienza, e Aaron Eckhart è bravissimo nell'essere un allenatore che probabilmente prima di ripescare da un destino infame il suo pupillo deve farlo con se stesso. Uno dei pregi rispetto a tutti gli altri film di box è che si parla anche molto di box, cioè c'è anche il dramma del pugile che non riesce a stare nel peso, c'è la voglia, la strategia di raccontare come si può migliorare, come si può andare avanti, cioè forse si parla un pochino più di box a differenza di Rocky, dove la box diciamo era forse la parte esteticamente peggiore. Non è forse un capolavoro del genere, però di sicuro è uno di quei film che ti riempie il cuore, ti riempie anche la faccia di pugni, perché li senti addosso, è molto ben diretto tutto ciò che avviene sul ring, quindi è comunque un grande godimento. E allora, promosso Bleed, giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Io ero insieme a lui, era venuto a prendermi. Le pietre che avevo erano sue. Andiamo ad avvisare la polizia. No, finisco in galera se lo faccio. Quelle pietre le ho contrabbandate. Di quali pietre si tratta? Di 6 perfetti smeraldi. Valgono una fortuna. Beh, indizio, come dire, che fa quasi prova, insomma. Miriam Lucchetti, redazione, è stata di una bontà infinita oggi. È un film, avete sentito anche dalle atmosfere d'antan, che ha qualche anno, però sono convinto che molti di voi abbiano già indovinato di che film si tratta. Scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, col vostro indirizzo, perché siamo lì per darvi un paio di copie in un video di questo film, e quindi insomma state con noi, perché poi prima della fine della trasmissione vi diciamo di che film si tratta. Una parabola sulla emancipazione femminile che è passata attraverso tre scienziate afroamericane nell'America degli anni 60, capaci di imporsi nella NASA. Era un periodo nel quale questa cosa non era così facile. Stiamo parlando del diritto di contare. Ruth, a che punto siamo con il matematico? È dietro di lei, signor Harrison. Lo sto leggendo. Ed è esperta di geometria analitica? Assolutamente sì. E sa parlare. Sì, signore, è così. Quale delle due? Entrambe. Geometria e parlare. Ruth, prendimi. Sai trovare il riferimento di Frenet per questi dati? Utilizzando il Gram-Schmidt? L'algoritmo di ortogonalizzazione. Io preferisco utilizzare le coordinate euclidee. Passato alla notte degli Oscar, passato ai Golden Globe con 3 candidature, ne ha avute 3 nomination anche agli Oscar. Insomma, è un film che è andato in zona premio in molti dei premi appunto più importanti di questo periodo dell'anno. Il diritto di contare di Theodore Melfi, con anche Kevin Costner nel cast, Kirsten Dunst, e questo terzetto con Taraji Jensen, Octavia Spencer e Janelle Monáe, nei panni appunto di queste 3 donne, Boris, che hanno un po' sconvolto gli assetti, gettato più che un sasso nello stagno della scienza, del mondo scientifico americano di quegli anni. Sì, agli Oscar non hanno preso un premio, però la vera protagonista, che adesso ha 98 anni, ha avuto l'onore del palco ed è stata applaudita a scena aperta, perché anche questa è una storia vera, una storia straordinaria, perché la NACA, perché allora si chiamava NACA e non NASA, apre alle donne i propri uffici, permette le assunzioni di donne e per lo più nere. Questo avviene perché l'America è la terra delle opportunità, ovviamente non è tutto rose e fiori, perché è anche la terra delle segregazioni. E quindi queste 3 donne, nonostante la loro grandissima cultura, la loro grandissima preparazione, si devono trovare nella situazione di affrontare i pregiudizi altrui, quelli maschili perché sono donne e quelli razziali perché sono afroamericane. C'è una scena appunto con i bagni dove appunto non c'è solo la divisione normale tra uomini e donne, ma anche tra bianchi e neri, quindi insomma un qualcosa che riguarda i propri bisogni primari e che incide di sicuro sul morale. E devo dire che questo è l'anno dei film programmatici sulla segregazione razziale. Ha vinto l'Oscar in maniera rocambolesca Moonlight. Io preferisco di gran lunga film furbi e molto programmatici come Moonlight, questi molto più classici come Il diritto di contare, dove si vuole raccontare una grande storia, una storia che sembra quasi una favola ma che è realmente esistita, una storia in cui si vogliono inserire una serie di aneddoti che sono veri e che sono anche esemplari. In questo senso il personaggio di Kevin Costner è estremamente stereotipato, che è sostanzialmente il capo bianco che prima mette i bastoni tra le ruote a questo terzetto di talenti e poi però, comprendendone la forza, rappresenta anche la catarsi americana di chi premia il merito più che il colore della pelle, è assolutamente indicativo. Non stiamo parlando di un grandissimo film, stiamo parlando sicuramente di grandissime attrici, c'è quello Octavia Spencer che era stata al centro anche del racconto di The Help, altro film simile nell'impostazione, la storia di suo era straordinaria e quindi si poteva solo rovinarla. Questo non avviene perché appunto le interpretazioni sono ottime, la scrittura è onesta, non ha guizzi, non ha colpi di tacco, ma non ha neanche cadute. Alla fine si porta a casa una storia molto classica, che forse avremmo potuto vedere anche 20 o 30 anni fa, scritta e diretta alla stessa maniera, ma certe storie forse vanno raccontate indipendentemente dal merito artistico, creativo e innovativo, e quindi va bene così. E questo è Il diritto di contare, Hidden Figures, figure nascoste, il bel titolo originale. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo, parliamo del Bergamo Film Meeting e poi di tutto il cinema da vedere in casa. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta La Rosa Purpurea. Allora, rieccoci alla Rosa Purpurea, fra poco parliamo di Bergamo Film Meeting, il festival che sta proprio avendo i suoi primi giorni di programmazione in quel di Bergamo, tutto il cinema da vedere in casa, ma prima, perché Isabella Aragonese, come dire, ci ha lasciato poco fa, lo spazio per la seconda traccia del film misterioso di oggi. Come spiegheresti il fatto di essere entrato in quell'appartamento? Direi che ero preoccupato per te. Preoccupato per una sconosciuta che ti è salita in macchina in aeroporto? Lo so, ma è la verità. La verità è molto pericolosa a volte. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo, come sempre, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere l'edizione in un video di questo film che vi sveleremo fra pochissimo. Adesso, invece, andiamo a Bergamo, dove siamo in collegamento con Angelo Signorelli per il Bergamo Film Meeting. Ciao Angelo! Ciao a tutti, ciao. Allora, festival numero 35, ricordo bene? 35. Numero 35, sì. Insomma. Stiamo diventando adulti. adulti, anche veramente una storia alle spalle veramente importante, una storia che quest'anno, al di là delle sezioni solite di un festival super partecipato con un grandissimo entusiasmo da parte del pubblico e della città, è un festival che ti dà sempre delle, come dire, degli highlight, delle esplosioni di grande qualità. Quest'anno nel segno, direi, soprattutto di Milos Forman, Angelo. Sì, abbiamo voluto dedicare una retrospettiva completa a questo autore che non fa film dal 2006, anche perché è affetto da una grave malattia agli occhi, però è stata una figura importante del cinema europeo americano, perché poi lui ha, dopo una carriera che ha visto la produzione e la realizzazione di 4 lungometraggi nell'allora Cecoslovacchia, poi nel 68 all'arrivo dei tank russi e delle forze del patto di Varsavia, ha deciso di non tornare più al suo paese, dove ritornerà solo dopo qualche anno per la realizzazione del film Amadeus. Legata a Carrière c'è anche l'omaggio che facciamo a Carrière, in un certo senso, perché Carrière ha sceneggiato 3 film di Forman, sono molto amici, e quindi ecco, è un percorso quest'anno che si lega un po', le due retrospettive si legano un po' tra di loro. Ecco, e Angelo, quindi... certo ci sono i grandi film, Amadeus, Qualcuno volò sul nido del cuculo, esatto, la versione restaurata dal BFI, dal British Film Institute, del cuculo. Questo come sempre, perché a Bergamo le copie sono il meglio che possa esserci in circolazione, quindi se volete vedere un film nello splendore della copia migliore, beh, questo è il festival giusto. Però c'è anche una straordinaria mostra di costumi, giusto? I costumi di Theodor Piste, che lui ha vinto anche l'Oscar per Amadeus per i costumi, è una mostra che tra l'altro non ha solo i costumi di Amadeus ma anche 5 costumi di Van Mon, il film tratto dalle relazioni pericolose di Laclos, un film che secondo noi va anche un po' rivalutato perché era uscito in condizioni un po' sfortunate, in coincidenza anche col film di Frears. I costumi sono dati dal laboratorio Tirelli, dalla fondazione Tirelli di Roma, sono veramente magnifici, sono i costumi originali usati proprio per la realizzazione dei 2 film, quindi parliamo di alta sartoria. Assolutamente dei capolavori anche i costumi. Per rifiniture, per scelte delle stoffe, per la ricognizione anche storica, Pista che è un personaggio, lui è un pittore, non ama definirsi costumista, però per questi lavori poi fa delle ricerche molto accurate attraverso appunto l'iconografia settecentesca, quindi è riuscito a rendere veramente anche attraverso i costumi quella che è l'atmosfera, quella che è il contesto storico dei film sia Amadeus che Van Mon. E allora ricordiamo l'appuntamento Bergamo Film Meeting fino al 19 marzo in quel di Bergamo. Grazie Angelo Signorelli. Grazie a voi, trovate comunque tutto sul sito www.bergamofilmmeeting.it. Bergamofilmmeeting.it. Grazie, ciao. Ancora buona giornata a voi, grazie. E allora, abbiamo introdotto il Bergamo Film Meeting, è il momento di passare a risolvere il nostro film misterioso della settimana scorsa. We had to all decide, we agreed on a thing before we do it. 4 votes had to be carried for any idea to go through. E si trattava di 8 Days a Week, il film, il documentario straordinario uscito all'inizio di questa stagione, con anche mezz'ora di concerto integrale dei Beatles e sui Beatles. In Blu-ray lo hanno indovinato e lo vincono Goffredo Monetti e Marco Cavalleri, entrambi di Milano, saranno i nostri vincitori che potranno godersi questo straordinario lavoro che ci porta dentro la storia dei Beatles con dei materiali d'epoca davvero straordinari, tra cui anche un piccolo frammento del concerto del Vigorelli di Milano, quindi insomma un episodio che è rimasto praticamente unico in Italia. E con noi Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo di un bellissimo dietro le quinte del periodo che va dal 1963 al 1966, i celebri touring years del sottotitolo, quelli del giro del mondo in centinaia di concerti, i concerti che non duravano quasi mai più di mezz'ora e in condizioni di ascolto quasi impossibili. Il film è veramente una festa di suoni e di colori, di testimonianze di fan inattesi, c'è anche una giovanissima Sigourney Weaver che racconta il suo amore per John Lennon, ed è sicuramente il tributo alla parte più frenetica della vita, non solo artistica, dei Fab Four. I Beatles probabilmente erano felici solo quando suonavano, ma fino al 1966 la mole di concerti e le urla del pubblico sovrastavano veramente tutto. È un film da esegeta e da fan di un Ron Howard capace di ritmo e analisi, con garanti familiari e gli aventi diritto, quindi qualcosa di anche filologicamente corretto. È sicuramente una chicca che viene presentata in un Blu-ray a doppio disco con 100 minuti di immagini extra che documentano il periodo e le riprese di 5 brani eseguiti dal vivo. E allora Giulio, andiamo a dare un'occhiata invece ai palinsesti della prossima settimana in TV. Abbiamo pescato una coppia di film italiani recenti, anche per inserirci nella polemica sul cinema italiano, eccetera, eccetera, per dire che ci sono assolutamente segni di vita incoraggianti, anche se si tratta di due film di 10 anni fa, del 2007, cominciando da Mio fratello e figlio unico. Sì, è storia di Iaccio e Malrico, fratelli coltelli nel Largo Pontino degli anni 60. Uno è fascista, l'altro è comunista, intorno a loro c'è una famiglia proletaria di una volta, costretta in una catapecchia, con una comunicazione che è fatta di botte, con le frustrazioni tenute buone dai sermoni del prete. Tocca ai due figli sfogare la rabbia, ribellandosi, picchiandosi, amando la stessa donna, dividendosi e poi ritrovandosi. La cosa sinceramente bella del film, il cui titolo richiama una canzone di Rino Gaetano, è il tentativo di raccontare dei personaggi e un momento della storia attraverso un linguaggio vivo e non didascalico. I limiti ci sono quelli di tanto cinema italiano, ma a volte vale la pena accontentarsi. E allora accontentiamoci per Mio fratello e figlio unico lunedì 13 su Iris alle 21, mentre giovedì 16 su Rai Movie alle 21:20 un'incursione nel giallo del nostro cinema con La ragazza del lago. Sì, è un altro film rilevante, un tentativo di noir d'autore tratto da un romanzo della norvegese Karen Fossum, che intreccia in maniera molto interessante il tema complesso dei legami familiari e in particolare di quello con i padri. Si respirano una freddezza e una tensione di poliziesco veramente d'alta classe, con un occhio ad Uremat e uno a Simenon. È un cinema italiano medio-alto, come non se ne vede spesso, ed è l'opera prima di Andrea Molaioli, che tra poco sarà in sala con Slam, e all'epoca era famoso per essere avuto regista di Nanni Moretti. Sulla cui confezione incide anche la produzione di Nicola Giuliano, che è lo storico socio di Paolo Sorrentino. Infatti la scelta del protagonista, Tony Servillo, non è casuale, e sorregge un film d'atmosfera, un giallo in cui il meccanismo magari non è perfetto, ma il fatto che non sia perfetto serve a dare molto più spazio agli individui che abitano questo film. E allora l'appuntamento è giovedì 16 su Rai Movie alle 21:20 per La ragazza del lago. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, prima di chiudere, l'ultimo capitolo della Rosa Purpura di oggi è la rivelazione del film misterioso con cui abbiamo giocato, Tutto in una notte, di John Landis. Ne parliamo la settimana prossima, tra l'altro stiamo preparando l'intervista a John Landis da farvi ascoltare qui alla Rosa Purpura. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.